Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona giornata, benvenuti a Magazine 24, il nostro appuntamento con la stampa periodica, la rassegna stampa di settimanali mensili italiani e stranieri. Oggi primo maggio, festa del lavoro. Allora cominciamo subito. Avrete senz'altro ascoltato in questi giorni, in queste ultime due settimane, le polemiche sulla possibile apertura o meno dei negozi il primo maggio. Non so da dove ci stiate seguendo, se da uno di quei comuni che ha poi deciso l'apertura dei negozi il primo di maggio, oppure invece uno di quei comuni che ha preferito mantenere la chiusura. Donna Moderna questa settimana ha provato a lanciare il suo abituale sondaggio proprio partendo da questa vicenda dei negozi aperti o no il primo maggio. Quindi hanno chiesto alle elettrici che volessero partecipare: in alcune città i negozi restano aperti il primo maggio, è una buona idea? E devo dire che sostanzialmente c'è una divisione netta a metà tra almeno la popolazione, la ridotta popolazione delle elettrici Donna Moderna che hanno deciso di partecipare a questo sondaggio. È un sondaggio che si svolge inviando degli sms al settimanale, quindi diciamo una cosa abbastanza semplice, non particolarmente elaborata. Però, fatte tutte queste premesse sulla scientificità, sulle caratteristiche del sondaggio, vi do i risultati. Allora, per il 31% di coloro che hanno risposto, l'apertura del primo maggio è comoda per fare shopping; per un altro 20% è comunque utile contro la crisi economica, e arriviamo quindi a un 51%. E il 49% però è esattamente il parere opposto: no, secondo il 37%, perché la festa del lavoro va comunque rispettata; e secondo un altro 12%, la percentuale quindi più bassa in assoluto, no, perché comunque i negozi andrebbero chiusi anche la domenica, quindi non servirebbe tenere aperti i negozi per favorire lo shopping nelle giornate festive in genere. E il breve commento che la redazione ha scelto di mettere a questi risultati dice proprio: per la prima volta in molte città, da Torino a Cagliari, da Genova a Palermo, i negozi sono aperti. La ragione è economica, ricorda la redazione. In un giorno festivo si incassa il doppio di un giorno feriale, un dato questo forse da non trascurare. Ma è giusto lavorare durante la festa del lavoro? Le risposte ve le ho segnalate. Diciamo, secondo una lettrice su due è giusto, secondo l'altra lettrice invece non è giusto, quindi siamo 51-49%. Hanno votato in tutto 186 lettori, un campione molto ridotto. Non sappiamo quanto chi invece ci sta ascoltando adesso sia o meno d'accordo, magari sia più o meno contento di trovare i negozi aperti nella sua città, se si tratta appunto di una di quelle che hanno così deciso. E allora, abbiamo cominciato parlando di economia, continuiamo a parlare un po' di economia, ma in un modo decisamente inconsueto, cioè parliamo della messa in scena della crisi economica. Ovviamente la crisi economica che da un paio d'anni oramai, prima finanziaria poi economica, ci sta dando parecchie preoccupazioni, trova sempre spazio tutte le settimane con tagli diversi sui vari magazine, sui vari settimanali o mensili, non solo italiani. Questa volta Newsweek questa settimana si occupa della messa in scena appunto di un crack finanziario. Quindi stiamo parlando di stretta attualità, verrebbe da pensare. Il titolo è Show Business, quindi è un gioco di parole quasi intraducibile, appunto perché qui si fa non solo del mercato uno show, ma in qualche modo c'è anche la duplice valenza di mettere in scena il business, gli affari appunto. E però si riferisce a un'opera teatrale che è a Broadway e che non è affatto dedicata alla crisi finanziaria degli ultimi anni, ma una vicenda molto molto più risalente, cioè quella di Enron. Allora, leggo da Newsweek la trama di un intrigante commedia che ha debuttato questa settimana a Broadway. È tirata giù direttamente dal Wall Street Journal, che è, come sapete, un giornale economico di rilievo internazionale. Nella scena iniziale ci sono dei finanzieri che spiegano, magnificano le tecniche contabili che promettono loro di valorizzare valorizzare i loro affari fino a limiti mai visti. E ci sono quindi bilanci, conflitti di interesse, ci sono degli analisti di borsa parecchio creduloni, ci sono dei dirigenti che in qualche modo si tirano indietro davanti alle loro responsabilità e così via. E questa è la descrizione. La descrizione che, come vedete, non rivela ancora di cosa stiamo parlando, perché tutti probabilmente possono pensare che si stia parlando delle vicende più vicine, dei crack finanziari più vicini a noi. Il protagonista invece, si rivela a questo punto, è Jeffrey Skilling, il CEO, il responsabile di Enron, attualmente in carcere. Lo spettacolo si chiama Enron e presenta che cosa è stato, quello che è stato, chiedo scusa, fino all'autunno del 2008 uno dei più grandi, delle più grandi debacle nella storia finanziaria americana. Però il contenitore, la spiegazione è davvero una roba da secolo scorso, spiegano da Newsweek. Quello che rimane uguale sono piuttosto le paure umane, l'avidità e insomma la messa in scena di certe tipologie, di certi caratteri, che davvero quelli non cambiano mai. Lo show però, e qui vengono le considerazioni più interessanti forse di questo articolo, arriva in effetti più o meno 9 anni dopo che questa vicenda è successa, con un ritardo che, se volete, è un po' sospetto. In una puntata di Magazine 24 qualche settimana fa commentavamo proprio invece la capacità americana di mettere in scena molto rapidamente la guerra in Afghanistan o in Iraq, e quindi insomma c'è una capacità di raccontare, di fare spettacolo, di trovare modo di spettacolarizzare anche vicende molto vicine, molto dolorose per gli Stati Uniti, che in questo caso chissà perché non sembra funzionare. Qui sono passati 9 anni appunto dall'evento di Enron, ci sono voluti 9 anni per arrivare alla messa in scena. Ci sono, segnala sempre Newsweek, dei progetti intanto che stanno avanzando. C'è un lavoro che si chiamerà Too Big to Fail, è una frase che oramai è diventata familiare a chi ha seguito le cronache finanziarie di questi anni, vuol dire troppo grosso per fallire, e si è riferito appunto a quelle banche che erano diventate così grandi, così importanti, che appunto non conveniva che fallissero, ma invece conveniva aiutarle. Questo è un altro lavoro che si sta preparando, dovrebbe essere lavorato per la televisione. E poi c'è un altro lavoro che dovrebbe essere dedicato invece in teatro alla vicenda dei mutui cosiddetti subprime, cioè quei mutui da cui è originata la crisi finanziaria. Quindi qualche cosa sta arrivando anche sulla crisi più recente. In realtà la conclusione poi di questo articolo è che l'attesa maggiore è per il nuovo lavoro del film di Oliver Stone, il ritorno di Wall Street, per chi lo ricorda, un film importantissimo negli anni 80, si chiamerà Il denaro non dorme mai, e riprende il personaggio di questo finanziere avidissimo e senza scrupoli, che appunto si chiamava Gordon Gekko, e che in realtà, come segnala lo stesso Newsweek, nel ritorno, nel sequel di quel film, a questo punto è scioccato nel vedere che la sua avidità, l'avidità che lui un tempo celebrava, ora è moneta corrente ed è diventata quasi una cosa istituzionale. A questo punto lui potrebbe anche passare per un bravo ragazzo. Questo è la chiosa di Newsweek. A conclusione di tutto questo lungo articolo poi si segnala appunto la difficoltà per gli sceneggiatori, per gli attori, nel mettere in scena queste cose, e quindi ad esempio nel mettere in scena Enron e spiegare delle cose che sostanzialmente consistono, leggo testualmente da Newsweek, in persone che si riuniscono e che stanno davanti a un computer pigiando dei bottoni di una tastiera, si ricorre a degli artifici spettacolari un po' ricercati. Quindi ci sono numeri di ballo, ci sono delle canzoni create sui prezzi delle batterie prime, ci sono degli attori che hanno la testa da dinosauro che sono lì a mangiarsi il debito che gli viene lanciato dai pezzi di carta che costituiscono il debito che viene lanciato loro dai responsabili finanziari. Insomma, un po' di fantasia per cercare di vitalizzare un attimo una materia che certo si presta poco al palcoscenico. Io ho letto tutto questo perché poi ho trovato sul Venerdì proprio la descrizione del film di Oliver Stone. Avrete visto forse ieri, il Venerdì, in allegato a Repubblica, Wall Street 2. Wall Street 2 si potrà vedere a Cannes fuori concorso dal 12 di maggio, quindi da questo mese, tra pochi giorni, il ritorno di Gordon il Cinico, una mammola ai giorni nostri, è proprio il titolo che hanno scelto anche al Venerdì. Michael Douglas, che ritorna con il suo personaggio del finanziere spregiudicato, che poi appunto così spregiudicato non è più, perché la spregiudicatezza è andata molto più avanti di lui, che nel frattempo è stato in carcere. Infatti nel primo film, nel Wall Street, lui finiva in carcere. All'uscita del carcere, dopo anni, rivelano qui in anteprima, non c'è nessuno ad aspettarlo, la moglie e la figlia non lo vogliono vedere, il figlio è morto di overdose, lui non ha più né soldi né potere, gli è rimasto solo il suo telefonino, ma è un telefonino degli anni 80, è una cosa lunga 30 centimetri, quindi qualcosa che oggi fa decisamente sorridere. Sembra però redento, addirittura ha scritto un libro che è intitolato L'avidità è un bene, quindi girando in domanda una delle sue frasi più celebri del libro, e questo libro si rivela un successo. Poi, dopodiché, da queste premesse naturalmente si sviluppa il film, che non viene svelato in altri particolari, neanche dal Venerdì, neanche nel presentare appunto questo ritorno, questa messa in scena con Wall Street 2. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24. Abbiamo parlato in qualche modo di soldi, anche se abbiamo parlato della messa in scena dei soldi, appunto spettacoli teatrali, film che si occupano della crisi finanziaria. Continuiamo in qualche modo a parlare di soldi, perché su Vita questa settimana hanno presentato un interessantissimo rapporto sulle classifiche del 5 per 1000. Ora, siccome è stagione di tasse ormai, penso che tutti sappiate che cos'è il 5 per 1000. È quella quota che uno può decidere di devolvere, di indirizzare ad alcuni enti che stanno in un lungo elenco predisposto dall'Agenzia delle Entrate, e con questo 5 per 1000 uno compie una scelta, decide appunto che una parte delle sue imposte venga destinata ad aiutare il cosiddetto terzo settore, il non profit. Allora, il settimanale Vita, che appunto si occupa di non profit, è andato a scavare nella classifica del 5 per 1000, chi ha preso più fondi, chi ne ha presi meno, per settore, per regione e così via. Allora, vi leggo qualche indicazione. Sostanzialmente sì, la fanno da padrone poi gli enti di ricerca contro il cancro e questo tipo di malattie, perché all'AIRC appunto sono andati 60 milioni. Sono andati invece molto male le destinazioni alle associazioni sportive. Oltre il 97% peraltro delle associazioni dilettantistiche non è stato nemmeno ammesso a questo beneficio. Però ci sono anche enti che sono riusciti a raccogliere milioni e milioni di euro. Leggo qua e là. Il fatto che appunto le associazioni sportive non abbiano avuto un grande successo muove Riccardo Bagnato, che è l'autore di questo lavoro, muove a Riccardo Bagnato una considerazione, che è quella: sembra che noi italiani davvero amiamo lo sport, ma lo amiamo soprattutto in televisione, cioè poco come sostegno, come pratica vera. Siamo invece molto sensibili alla ricerca oncologica, la regina, per così dire, del 5 per 1000, che incassa un quarto del gettito a disposizione, oltre 100 milioni di euro sui 415 in totale. La fanno da padrone l'AIRC, appunto, la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, l'Istituto Europeo di Oncologia, la Fondazione Umberto Veronesi, la Fondazione dell'Istituto Nazionale dei Tumori, infine il Centro di Riferimento Oncologico. Quindi tutti questi enti prendono una grande parte di questa scelta compiuta dagli italiani nelle dichiarazioni dei redditi. Tra l'altro non è inutile ricordare che qui stiamo parlando dei redditi 2007, quindi le scelte che abbiamo fatto nella dichiarazione del 2008, perché c'è una lentezza di assegnazione con queste risorse che non si riesce davvero a comprendere fino in fondo. Insomma, questi enti devono davvero aspettare parecchio tempo prima di vedere quello che noi gli abbiamo destinato con le dichiarazioni dei redditi. Altro campo, proseguiamo con l'articolo di Bagnato, verso il quale gli italiani mostrano più di una simpatia. è quello delle emergenze internazionali, tanto che le prime tre ONLUS, associazioni appunto senza scopo di lucro, sono Medici Senza Frontiere, Emergency e l'UNICEF. Un po' più distaccate altre associazioni dedicate alle emergenze internazionali, come possono essere ActionAid, Save the Children, l'AMREF, Amnesty, la Croce Rossa e la Fondazione AVSI. Poi fra gli animalisti la prima classificata nelle preferenze è la Lega Antivivisezione e così via, andando fino alla difesa dell'ambiente, dove il primo posto è assegnato all'inossidabile, così viene definito, WWF, che prende la maggior parte delle destinazioni di questo settore. Interessante un dettaglio: anche le regioni, forse non tutti lo sanno, possono accedere al 5 per 1000 per sostenere le proprie attività di ricerca in ambito sanitario. Ecco, però poi succedono delle cose un po' curiose, perché nel Molise, ad esempio, soltanto 16 contribuenti hanno pensato di devolvere il loro 5 per 1000 a questo tipo di destinazione, invece in Emilia-Romagna ci sono state 878 preferenze, in Veneto comunque ci sono stati c'è stata un'assegnazione almeno di 14.000 euro, insomma, decisamente di più dei 16 del Molise. Per converso ci sono invece delle realtà relativamente piccole che però riescono a vedersi assegnati un buon numero di fondi. Qui si cita sempre da vita il caso della Croce Bianca di Bolzano o della Pubblica Assistenza di Castelfranco Emilia, che sono riuscite, pur appunto operando in un territorio molto ristretto, a garantirsi dei finanziamenti di tutto rispetto. Questa è la classifica del 5 per 1000, quindi che cosa preferiamo sostenere, quando possiamo esprimere la nostra scelta nella dichiarazione dei redditi, tratta da Vita, dal numero di Vita di questa settimana, al settimanale del non profit. E allora, visto che parliamo di soldi, chiudiamo questo capitolo del denaro. Vi consiglio un volume che stiamo presentando in edicola proprio in questi giorni, i 300 migliori fondi, tutto quello che si deve sapere per investire in fondi. Sapete che i mercati comunque restano turbolenti, ci sono delle vicende che stiamo seguendo su Radio 24, sul Sole 24 Ore, giorno per giorno, appunto per cercare di capire che succederà della Grecia, degli altri stati che comunque sono coinvolti dalle questioni della crisi finanziaria. Ecco, il Sole 24 Ore vi offre uno strumento per approfondire le possibilità di investimento dedicate ai fondi. È un volume in vendita appunto in abbinamento con il quotidiano, contiene 300 schede aggiornate sui migliori fondi che vengono commercializzati in edicola al prezzo di 19,90 euro, che si aggiungono al prezzo del quotidiano. E allora, a questo punto, visto che abbiamo parlato di previsioni in qualche modo, perché acquistare un fondo significa un po' anche cercare di azzeccare una previsione, decidere un investimento è azzeccare una previsione, o almeno sperare di averla azzeccata, veniamo alle previsioni più abituali, quelle meteo. Perché? Perché sia su Donna Moderna sia su 7, che è l'allegato appunto del Corriere della Sera che avete trovato da giovedì, che trovate da giovedì scorso con il Corriere della Sera, ci sono due indicazioni importanti legate alla nube islandese. Ora, io non proverò nemmeno a pronunciare il nome del vulcano islandese, del ghiacciaio a cui si deve tutto il pasticcio, tutto il disastro che ne è conseguito, però invece vi voglio segnalare che Luca Mercalli su Donna Moderna di questa settimana ci dice che le grandi eruzioni possono influire anche sul clima terrestre, quindi dopo aver fermato gli aerei l'eruzione islandese potrebbe provocare anche degli effetti a livello di clima. Mercalli è abbastanza ottimista sul punto, ritiene che questi rischi dovrebbero essere molto molto contenuti. Vi spiego perché, leggendo da lui. Appunto, l'ultima volta con l'eruzione del vulcano Pinatubo nelle Filippine, eruzione che avvenne nel 1991, ci fu un temporaneo raffreddamento del clima terrestre. Quello fu il raffreddamento più imponente dell'ultimo secolo. Proiettò fino alla stratosfera 17 milioni di tonnellate di biossido di zolfo, che si diffusero con i venti d'alta quota, formarono insomma un'estesa nube di acido solforico, e questa nube riuscì a ridurre del 10% l'irraggiamento solare sul pianeta. E in conclusione i climatologi fecero dei conti e ritennero quell'eruzione nel vulcano delle Filippine responsabile di un calo di quasi mezzo grado delle temperature mondiali tra il 1992 e il 1993. Precisa Mercalli opportunamente, sembra poco mezzo grado, ma in realtà, trattandosi di un valore medio che viene calcolato su tutto il mondo, è poi tutt'altro che trascurabile. Si parla anche, ne parlano ovviamente gli storici, di un'eruzione del 1815 che raffreddò l'atmosfera a tal punto che l'anno successivo venne chiamato l'anno senza estate. Veniamo alle cose più rassicuranti. Il vulcano islandese, ripeto, non cerco neppure di pronunciarlo, non sembra poter arrivare a tanto, sia per i minori volumi di materiale espulso, sia per la quota più bassa raggiunta da gas e ceneri. Questa quota più bassa ne limita la diffusione in atmosfera a livello mondiale. È bello sapere che c'è una certa consonanza tra i meteorologi, perché anche Guido Caroselli su 7, occupandosi proprio della questione della nube islandese, degli effetti sul clima, dice: la Terra potrebbe raffreddarsi, dice il titolo, però precisa che si sta seguendo giorno per giorno l'evoluzione in pieno divenire, però il raffreddamento potrebbe succedere solo se i prodotti appunto dell'eruzione fossero sparati a quote molto superiori, oltre i 10-15 km. Nel caso appunto che abbiamo visto non dovrebbe esserci questo rischio. E con questa segnalazione, questa buona notizia, in qualche modo io vi auguro una buona giornata. Ringrazio Filippo Auregi che mi ha aiutato in regia stamattina, nonché Margherita Aina e Vittoria Mussini che hanno preparato con me questo programma. Grazie e a risentirci domani mattina, sempre alle 8:30 su Radio 24.